Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brustolando Maridì ai microfoni, vi augura un'ottima serata in nostra compagnia. E siamo a luglio e si sente, anche se oggi le temperature si sono un po' rinfrescate. Sono giorni caldi invece altrove, già che, come sapete, sono tante le cose che stanno accadendo sull'agenda internazionale in questi giorni e noi ovviamente viviamo in questa città. E quindi siamo al corrente un po' di tante cose. Quindi questa sera volevo veramente inviare un messaggio di serenità, laddove ovviamente possa essere possibile, ai nostri amici greci. Sapete che poi Brustellando, il Radio Alma in particolare, accoglie anche questa famiglia linguistica all'interno delle proprie attività culturali. Quindi volevo veramente esprimere sia solidarietà, e ovviamente tanta comprensione in un momento storico sicuramente non semplice. Mi auguro che davvero possa essere raggiunto un accordo, l'accordo migliore ovviamente, che possa veramente rassicurare da più punti di vista, da un punto di vista politico interno, esterno, geopolitico, insomma, quello che bolle in pentola in questi giorni sicuramente non è di semplice gestione per nessuno. Quindi veramente faccio i miei migliori auguri a chi dovrà in queste ore decidere e prendere le decisioni più appropriate. E invece torniamo alle nostre attività, torniamo a Brustellando. Sono contenta perché ritorna con noi un ospite che era stato già con noi qualche tempo fa. Ritorna con ciò che a lui piace di più, con i racconti, e lo fa in una maniera originale, particolare, una sorta di meditazione che non riguarda soltanto la scrittura, ma riguarda anche un certo modo di concepire la letteratura e in particolare la letteratura americana. Allora, sentiamo che cosa ci ha raccontato al telefono qualche giorno fa Paolo Cognetti, che sicuramente si godrà il fresco dall'alto delle sue care e amate montagne. Care amiche, cari amici, quindi sono molto contenta perché ritorna un ospite graditissimo, ritorna ai microfoni di Brustellando e di Radio Alma, Paolo Cognetti, che già è stato nostro ospite qualche anno fa. Paolo, benvenuto, anzi, bentornato a Radio Alma e a Brustellando. Grazie, grazie, ciao a tutti. Allora, è trascorso un po' di tempo dall'ultima volta in cui non ci siamo sentiti. Ci eravamo sentiti a proposito di, credo, un racconto oppure un romanzo, ma poi tu ci, insomma, chiarirai bene il ricordo, perché il ricordo è molto vago, su New York. Comunque avevi scritto una cosa molto bella su New York e ci eravamo sentiti allora, quindi è trascorso qualche anno. Ma magari prima di parlare della tua, una delle tue ultime fatiche letterarie, raccontaci che cosa è successo in questi anni. Cos'è successo? Un sacco di cose. Quello mi sembra fosse un libro del 2010 che si intitolava New York è una finestra senza tende, una guida letteraria a New Bravissimo, York. esatto. E nel frattempo sono andato quasi a vivere in montagna, quindi in un posto diversissimo da New York. Adesso abito per diversi mesi all'anno in Val d'Aosta. E ho scritto un libro sulla mia vita qui, una specie di diario dell'eremitaggio un po' ispirato a Walden di Thoreau, che si intitola Il ragazzo selvatico. Ho scritto una specie di romanzo strano, nel senso che è fatto da racconti, che si intitola Sofia si veste sempre di nero, che mi ha dato un sacco di soddisfazioni negli ultimi anni. E poi ho scritto questo libro sull'arte di scrivere racconti, ma forse soprattutto sull'arte di leggerli. Io sono sempre stato un grande lettore di racconti. Allora io partirei proprio da qui, quindi a pesca nelle pozze più profonde, con un bel sottotitolo direi, perché tu scrivi Meditazioni sull'arte di scrivere racconti. Allora, partiamo su due cose. Meditazioni, che cos'è per Paolo meditare? Partiamo da lì, perché è una parola molto bella, cioè meditazione. Beh, adesso che sono qui ti posso dire che è soprattutto per me camminare, e questo era un'azione molto cara a Thoreau, e quindi per tanti non si può pensare stando seduti, ma si può pensare solamente camminando e pensare alle cose che amiamo. Quindi, appunto, io sono diventato un lettore di racconti prestissimo, verso i 16-17 16-17 anni, quando tutti noi abbiamo un po' una svolta nella nostra vita da lettori, nel senso che troviamo le cose che ci piacciono, troviamo un po' la nostra strada. Io ho trovato la mia nella forma breve e in particolare nel racconto americano, e l'ho esplorata per tantissimi anni, non ho ancora finito. Poi ho iniziato a fare, da quando sono uno scrittore pubblicato, ho iniziato a fare dei corsi di scrittura, più che altro dei laboratori, e quindi su queste mie letture ho cominciato anche tanto a ragionare, a cercare di prendere il lavoro dei maestri e meditarci sopra, appunto. E così, un po' alla volta negli anni, è nato questo libro, che è una raccolta di pensieri sui lavori di alcuni dei miei scrittori preferiti. Infatti, leggo da alcune cose, per esempio prendo ispirazione anche dal tuo blog, che è stato veramente un tentativo di mettere insieme più pensieri e quindi non è né un manuale di pesca né di scrittura creativa. No, beh, perché un manuale è una cosa un po' prepotente, nel senso che poi giustamente tanti, quando si parla di manuali di scrittura, storcono il naso. La scrittura non del tutto si può insegnare, però sicuramente ci si può ragionare sopra. E quindi essere dei lettori più attenti, perlomeno se si vuole scrivere, se si vuole diventare degli scrittori. E quindi leggere le cose che amiamo con degli altri strumenti. Quello che ho provato a fare. Assolutamente. Allora, magari parliamo proprio allora di questi racconti, parliamo di questa meditazione, perché si divide in tre parti. Quindi magari raccontaci tu un po' i contenuti prima di passare poi alle tematiche chiave. Sì, la terza parte sono dei racconti miei. Ho voluto metterci in fondo dei miei racconti. In un modo un po' spavaldo, per alcuni azzardato, alcuni lettori mi hanno criticato questa cosa, perché insomma parli tanto dei maestri, poi alla fine ci metti delle cose tue e sembra un po' troppo, però invece a me andava di dire, dopo tutto questo ragionare sui racconti dei miei maestri, ecco, questi sono i miei, poi possono piacervi oppure no, ma mi metto in gioco. Invece i primi due capitoli sono nello specifico, ecco, proprio il contenuto del libro. E sono uno, il primo si intitola Sul mistero ed è fondato sull'idea che in un racconto è molto importante quello che resta fuori. Un racconto più che un romanzo è organizzato su quello che si vede e quello che non si vede, quello che dice e quello che non dici, quello che di una storia è chiaro e quello che invece rimane misterioso. Alla fine di un romanzo spesso è tutto chiaro, tutte le domande trovano risposta, invece in un buon racconto si finisce chiedendosi ancora un sacco di cose, si rimane un po' sospesi su tutto quello che non sappiamo, che non abbiamo capito. Il secondo capitolo si intitola La posizione del narratore ama i tuoi personaggi, in particolare, era un comandamento che ho scelto. Questo per dire che, appunto, al di là dei tecnicismi della scrittura, una cosa che a me sta molto a cuore è l'atteggiamento dello scrittore verso i suoi personaggi. Sento che gli scrittori che mi piacciono di più provano un sentimento forte di vicinanza, di compassione, di empatia con le vite che raccontano, anche se spesso questi racconti non sono in prima persona, quindi non c'è un'immedesimazione totale nella vita del personaggio, però è una terza persona molto vicina alle storie che racconta. Quindi Allora, c'è. vorrei dire, prima di tutto, prima di addentrarci nel come si scrive, se uno non ama, scrivere non serve a niente. Allora, guarda, io ne parlavo con alcuni amici perché comunque mi ha colpito molto veramente innanzitutto il tuo stile, poi la minuzia delle parole, le metafore e anche il modo di far rivivere la scrittura di scrittori noti e poco noti, perché io sono certa che tra tutti gli scrittori che hai citato, non so quanto il pubblico italiano, quello magari meno attento agli scrittori americani, quindi quanti ne possa conoscere. Per me è stato un bel viaggio, è stato un viaggio intorno alla parola, intorno alle potenzialità legate alla parola stessa. E allora, magari, poiché non possiamo ripercorrere nel tempo di un'intervista tutti gli autori, te ne lascio scegliere due. Anche se mi rendo conto che è difficile, scusamene, e magari di dirci perché hai preferito quei due e perché si ritrovano, nel romanzo? Dovendo sceglierne due, ne scelgo due particolarmente poco famosi, magari così Ancora meglio, sì. può darsi che trovi qualche nuovo lettore, perché poi una delle cose più belle di questo libro è che a volte i lettori mi scrivono per ringraziarmi perché hanno scoperto degli scrittori che non conoscevano e se ne sono appassionati. Una è Grace Paley, una scrittrice ebrea newyorkese, ebrea nel senso che era figlia di immigrati ebrei ucraini all'inizio del Novecento, che ha scritto poco, ha scritto tre raccolte di racconti in una lunga vita, perché poi lei è morta piuttosto anziana non tanti anni fa, e lei sosteneva di avere altre cose importanti da fare. Alcune di queste cose erano crescere i suoi figli da sola, un'altra cosa era difendere le idee in cui credeva, era un'attivista politica, una pacifista, una femminista. E tra tutte queste cose scriveva racconti. Sono racconti molto strani. Noi che amiamo i racconti a volte ci poi appassioniamo a scrittori che rompono le regole, nel senso che le regole della trama, di una trama che si apre, si sviluppa e si chiude, sono un po' noiose se tu leggi i racconti. Allora ci sono degli scrittori un po' particolari che invece fanno di un racconto quello che vogliono loro, senza trama e senza finale, come diceva Cecov. Grace Paley faceva di questi racconti dei lunghi ascolti, nel senso che al centro dei suoi racconti ci sono dei personaggi, spesso sono delle donne, a volte sono degli anziani, a volte addirittura dei bambini, sono tutte le persone che lei incontrava nella sua vita, soprattutto a New York, soprattutto nel parco di Washington Square, e questi racconti sono, ecco, il mettere per iscritto l'ascolto delle loro storie. L'altro scrittore a cui sono molto legato e che non conosce quasi nessuno si chiama Charles D'Ambrosio, è uno scrittore americano del nord-ovest, nel senso che è nato e vive nell'Oregon, ed è uno di quegli scrittori un po' tipici della costa ovest, nel senso che quelli della costa est sono molto urbani, ambientano le loro storie a New York. Parlano molto spesso di coppie, relazioni, eccetera. Invece gli scrittori dell'Ovest sono molto più aperti al paesaggio, alla natura, ambientano i loro racconti in questi grandi spazi, non sempre maestosi, a volte anche desolati. E D'Ambrosio ha scritto finora solo due libri di racconti, pur essendo uno scrittore che è esordito a metà degli anni 90, è uno di quegli scrittori molto schivi, molto silenziosi, non si sa mai bene cosa stanno facendo. E racconta soprattutto di solitudini che a un certo punto si incrinano grazie a un incontro. E ci sono due mondi che entrano in contatto, e poi il racconto parla un po' di queste relazioni strane che si vengono a formare tra due estranei che improvvisamente e per motivi insoliti entrano in intimità. Allora ti faccio una domanda. Tra gli scrittori che tu ami, cosa ti colpisce per primo? La trama, quindi le storie, oppure il linguaggio, lo stile, oppure più elementi messi insieme? Ma sarebbe strano dire la lingua perché io amo tanto appunto gli scrittori americani, e anche se ci sono anche tanti scrittori italiani che amo, però ecco, la mia passione sono gli americani, li ho letti soprattutto in traduzione, quindi è una lingua che è un italiano neutro che viene dai traduttori. La trama appunto, quando si parla dei racconti, diventa qualcosa di meno importante forse, nel senso che in un bel racconto è molto più importante riuscire a ritrarre bene un personaggio, un luogo, una situazione, riuscire a entrare in una vita per il tempo di poche pagine. Il miracolo di un bel racconto, di un capolavoro, è che tu nel giro di poche righe sei in una vita, dentro la vita di qualcuno, e poi così come ci sei entrato l'abbandoni poche pagine dopo. Quindi mi viene da dire che il talento di uno scrittore di racconti è proprio questa grande, grande sensibilità per capire le persone perlomeno a cui lui vuole bene, e per entrare nelle loro vite, nei racconti. Non so perché pensavo che tu avessi letto questi scrittori in inglese, perché insomma, pure per chi li ha tradotti, insomma, scoprirli non credo sia stata un'operazione facile. Quindi tu come li hai scoperti? Andando in libreria oppure perché ormai è una rete magari che funziona anche negli Stati Uniti? Io li ho scoperti perché per caso, nel senso che per caso faccio parte di una generazione, io sono nato nel 78, che ha avuto 20 anni alla fine degli anni 90. E in quel periodo c'è stato un fenomeno tutto italiano di nascita di piccole case editrici che guardavano all'America, forse un po' più di adesso, perché insomma in questi ultimi anni mi sembra che il panorama della letteratura americana sia diventato un po' più decadente, ma in quell'epoca era molto fiorente, e questi piccoli editori si ritrovarono a pubblicare racconti, soprattutto perché erano libri che in Italia non pubblicava nessuno, quindi i romanzi magari costavano, era difficile prenderli, era difficile pubblicarli, i racconti erano lasciati lì. Quindi si ritrovarono ad attingere a un patrimonio che in Italia era ancora sconosciuto. Il grande rilancio di Carver, per esempio, che poi è diventato per noi lettori, ma anche per tanti scrittori, un po' il padrino del racconto in questi ultimi decenni, è avvenuto grazie a una casa editrice che è Minimum Fax, che l'ha riscoperto negli anni 90. Ma con lui ce ne sono stati tanti altri. Quindi direi che è stato un incidente generazionale, forse se fossi nato 20 anni prima non sarei diventato un lettore di racconti. C'è un racconto che avresti voluto scrivere tu? Ce n'è uno che senti? Beh, sai che purtroppo devo farti domande difficili, quindi dai, scegliamone ancora due. C'è un racconto di Salinger che si intitola Per Esme, con amore e squallore. Salinger è molto conosciuto per Il giovane Holden, ma per tanti lettori era soprattutto un bravissimo scrittore di racconti. E ha pubblicato una raccolta che è una pietra miliare per noi, che si intitola I nove racconti. Tra questi c'è questo racconto che parla dell'incontro tra un soldato e una ragazzina. Lui era aveva un po' questa ossessione, torna molto spesso nei suoi racconti, questo momento di incontro e di dialogo tra un uomo adulto e una ragazzina sui 10-12 anni. E il giorno prima di partire per l'Europa, questo soldato americano che sta finendo il corso d'addestramento in Inghilterra, quindi il giorno prima dello sbarco in Normandia, incontra questa ragazzina in una sala da tè, loro hanno questa conversazione bellissima, piena di grazia, che poi il soldato si ricorderà mesi dopo tutti gli orrori che lui ha visto. È un vero capolavoro e consiglio a tutti di leggerlo. L'altro racconto, ma forse è più una serie di racconti, sono i racconti di Nick Adams di Hemingway, anche lui famoso per tanti romanzi che ha scritto, in realtà era un grande scrittore di racconti, e nei primi anni della sua carriera letteraria, tra i 20 e i 30 anni, scrisse tantissimi racconti con questo protagonista Nick Adams, che era il suo alter ego, che insomma non è difficile riconoscere i dettagli della vita di Hemingway in quelli di Nick, ed è un romanzo di formazione che comincia da quando Nick ha 9-10 anni e viene portato a caccia e pesca da suo padre, passa attraverso l'esperienza della Prima Guerra Mondiale in Italia, finisce con il ritorno a casa, con il matrimonio, con i figli, però la cosa molto bella è che tutto questo viene raccontato non attraverso un romanzo, ma attraverso tanti racconti molto frammentari, molto separati tra di loro, in cui ricostruire la vita di Nick Adams è un po' un lavoro come quello di ricostruire un mosaico, insomma. Ci sono tanti buchi nelle vite, tante zone buie, cose che non sappiamo delle persone. Per questo a me sembra che a volte i racconti siano più adatti a raccontare la nostra vita piuttosto che i romanzi, dove tutto è pieno, tutti gli effetti hanno delle cause, tutto torna. I racconti sono pieni di omissioni, ecco. E Hemingway questa cosa l'ha fatta prima di tutti, con i racconti di Nick Adams. Bene, allora c'è qualcosa a cui stai scrivendo adesso, oppure sei concentrato soprattutto sulla promozione di questo tuo volume? No, io non mi concentro sulla promozione. Credo che quando un libro è scritto, sì, è una cosa che bisogna fare ed è giusto fare, perché altrimenti lo si abbandona e non va bene. Però tutti i pensieri sono rivolti alla prossima cosa, e sto scrivendo una storia ambientata qui in montagna. Resti sempre nell'ambito del racconto oppure pensi un giorno di abbandonarlo? Aiuto, penso che sto scrivendo il mio primo romanzo. Allora vedi che tutto sommato le riflessioni sulla scrittura quindi aiutano. Sì. Allora Paolo, noi abbiamo molti, molti giovani che ci seguono, che amano la letteratura, che amano la scrittura, soprattutto che adorano anche scrivere. Ce ne sono tanti che frequentano anche corsi di scrittura. Però dalla tua esperienza, lo so che la tua non è un'intenzione, cioè comunque non ha l'intenzione di suggerire magari percorsi rispetto alla scrittura stessa, ma c'è un consiglio, forse più di un consiglio, che ti senti di indirizzare a coloro i quali hanno iniziato, oppure coloro che invece non hanno mai aperto quel cassetto e quindi cominciato a scrivere le pagine che vorrebbero scrivere? Ma il problema di chi comincia a scrivere è che questa è un'attività molto solitaria, in cui ci si sente davvero soli, non si sa nemmeno chi far leggere le proprie cose. Facciamo leggere i nostri racconti a amici, fidanzate, parenti, però non sono esattamente le persone giuste per aiutarci. E quindi una cosa che mi viene da dire è trovare un ambiente, trovare l'ambiente giusto per coltivare la scrittura. Questo perlomeno in Italia non succede, non può succedere nelle scuole, nelle università, non c'è un luogo dedicato a questo, come magari invece succede nelle università americane. Però ci sono tanti laboratori di scrittura, ce ne sono talmente tanti che non si sa bene quali siano quelli buoni e quelli no. A me viene da dire che se stimi uno scrittore e pensi che, ecco, che il suo lavoro ti piace, che quella persona potrebbe avere qualcosa da insegnarti, allora forse seguire quello che fa e può darsi che, ecco, che faccia qualcosa di simile a un corso, un laboratorio. Io da tanti anni, più che corsi e quindi lezioni in cui si parla del personaggio, la trama, il dialogo, eccetera, cerco di dar vita a dei laboratori, quindi dei luoghi in cui persone che conosco da tanto tempo, alcune a volte ne arrivano di nuove, alcune invece li frequentano da molti anni, possano venire, leggere le loro cose, discuterne insieme, ecco, trovare l'ambiente giusto in cui coltivare questa passione. C'è un sogno ancora nel cassetto? Beh, diventare un bravo scrittore è sempre il sogno che continuo a inseguire. Allora, siamo purtroppo ormai verso la fine della nostra intervista, perché il tempo è ahimè tiranno, ma ancora una piccola curiosità. C'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti aggiungere ai microfoni di Radio Alma di Brussellando? Sì, vorrei aggiungere che penso che ci sia un buon momento per la letteratura italiana. Viene distrattata di solito, sembra sempre che le letterature interessanti siano altrove. Io non sono una persona che frequenta tanto i circoli, i salotti, gli altri scrittori, eccetera, però li leggo, li seguo da lettore. E penso che ci sia una buona generazione di 30, 40, 50 anni che riescono a raccontare l'Italia di questi ultimi anni e che siano da seguire, insomma. Allora, abbiamo citato vari autori americani, magari sai, noi che siamo qui in Belgio, nonostante facciamo del nostro meglio per continuare a diffondere la lingua e la letteratura italiana, magari qualche cosa ce la perdiamo. C'è uno, più di un autore che ci vorresti consigliare, visto che ormai l'estate è ormai alle porte, anche qui in Belgio, magari qualche libro da portare con noi sotto l'ombrellone? Ma io voglio molto bene a Giorgio Fontana, che è un amico e uno scrittore che stimo, ha scritto un romanzo che l'anno scorso ha vinto il premio Campiello, sì, e che si intitola La morte di un uomo felice, ed è il secondo libro di una coppia di romanzi su Magistrato, che ritrae molto bene Milano. Io è la città dove sono nato e cresciuto e ogni tanto mi manca il fatto che nella letteratura, perlomeno la più recente, sia una città che non si riesce tanto bene a raccontare. Invece Giorgio l'ha fatto molto bene, quindi questo libro lo consiglio a tutti. Un altro è Nicola La Gioia, che è Beh, insomma, in corsa per lo Strega in questi giorni si saprà come andrà a finire, ma in ogni caso ha scritto anche lui un romanzo molto bello, anzi ne ha scritti diversi, questo è il terzo. Così, questi sono un po' i miei amici e gli scrittori che vi consiglio. Beh, Nicola è stato nostro ospite qualche mese fa, quindi gli facciamo veramente un grosso in bocca al lupo affinché possa magari coronare anche questo sogno. Invece, il primo autore che citavi, cioè, ho il libro a casa, l'ho iniziato e poi lo riprenderò allora perché è vero che parlava di Milano, quindi è un ambiente che conosco un po' di meno, ma lo riprenderò perché insomma mi sembra un ottimo suggerimento. Quindi, allora, Paolo, noi ti ringraziamo di aver dedicato un momento con noi a Radio Alma, Brussellando. Grazie a voi. Quindi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, per quanti veramente adorassero il racconto americano in particolare, vi consiglio di leggere A pesca nelle pozze più profonde, meditazioni sull'arte di scrivere racconti, edito da Minimum Fax, pardon, e saluto anche Simone Marchi, che ha permesso che questa intervista potesse aver luogo. Paolo, noi ovviamente ti facciamo un grosso in bocca al lupo Grazie, grazie mille. e speriamo che non trascorrino ancora 5 anni prima di risentirci una prossima volta. Ma magari anche speriamo di sì, nel senso che vuol dire che abbiamo davanti un lungo futuro radioso. No, io invece spero che insomma, in questi anni poi tu possa scrivere tanto, così che ci possiamo sentire più Certo, spesso. grazie, grazie Buona serata. mille. Ciao, anche a te, ciao. Ciao. Egregio dottor Ruggeri, buongiorno innanzitutto e ben ritrovato sui microfoni di Brussellando, dopo credo circa un anno dalla sua ultima opera che era Una storia operaia. Lei oggi si ripresenta qui, insomma, poco tempo dopo, quindi un autore molto prolifico, con un nuovo libro. Un nuovo libro che riprende la storia della Fiat, è un libro che viene nuovamente edito da Gran Torino Libri, che è la sua casa editrice, e spero di avere il tempo alla fine di parlare anche un po' della sua casa editrice, di questa nuova idea di editore. Ma iniziamo subito con il libro, perché il libro è il motivo per cui lei è qui a Bruxelles e io spero la prossima volta di averlo direttamente ai microfoni di Bruxellando, anziché fare un'intervista così con i pochi mezzi messi a disposizione da Bruxellando. Ma volevo chiederle questo: il titolo del libro, innanzitutto, Fiat, una storia d'amore, aperta parentesi, finita. Chiusa parentesi. Perché? Aperta parentesi, finita, chiusa parentesi. Dunque, perché la storia d'amore ovviamente c'è. Il quesito che io mi sono posto quando ho cominciato a scrivere questo libro, che l'ho cominciato a scrivere il giorno, anzi una sera, la sera di Capodanno del 2000, tra il 2013 e il 2014, quando un amico di New York, che sapeva che io ero molto interessato a seguire il caso Fiat, ne scrivevo spesso su Italia Oggi e su Milano Finanza, mi comunica, non dico in anteprima perché era già avvenuto, ma mi comunica che Marchionne ha firmato insieme ai sindacati americani, ha firmato l'ultimo acquisto del 40, del 41,5% che gli dava la possibilità di arrivare al 100% di Chrysler e quindi poteva fare l'operazione di fusione. Mi sono detto a quel punto lì, mi sono detto è il momento di scrivere un libro sulla fine di questa storia. Però mi sono detto anche, ma questa qui è la fine di un amore, nel caso mio specifico. La Fiat avrebbe chiuso poi la sua esistenza terrena come Fiat ad agosto del 2014, al compimento di 115 anni. La mia famiglia, cioè mio nonno, mio padre, mia madre, tutti operai, ed io, operaio all'inizio e poi per un insieme di circostanze arrivato ai vertici dell'azienda, complessivamente avevamo superato i 100 anni. Quindi come famiglia la sommatoria io faceva più di 100, quindi eravamo, credo, nelle condizioni ideali per poter esprimere giudizi e per poter esprimere Sulla storia di questa sulla storia di questa azienda che noi l'avevamo vissuta internamente. E allora ho scritto questo libro, che in realtà è un libro che dura 80 anni, cioè da quando io nasco, nel 34, al 2014, quando l'operazione si chiude. Ed è stato, sono stati 80 anni di amore. E allora mi sono chiesto, ma qual era, che tipo di amore? Come si fa ad essere innamorati di un'azienda? E mi sono risposto, via via che ho scritto il libro, via via che scrivo il libro, mi sono risposto, cioè fino a quando? Fino a quando io non ho avuto questo salto, chiamiamolo di carriera, che è coinciso più o meno con la fine dell'era Valletta e con l'arrivo dell'avvocato Agnelli, la prima parte era certamente un amore verso tre persone, che per motivi diversi, che adesso è troppo lungo raccontare, nel libro compaiono, e sono Valletta, la signorina Rubiolo, che per chi è nel mondo del giornalismo in Italia è stata la più grande forse direttrice delle relazioni esterne di un gruppo industriale e non solo, e l'ingegner Dante Giacosa, che è persona sconosciuta ai più, persona che io personalmente paragono a Steve Jobs, perché ha avuto delle idee straordinarie nel campo dell'automobile. Ma mi pare che la 500 sia stata. La 500 l'ha fatta a 26 anni, quindi a 26 anni era il direttore della progettazione della Fiat e ha fatto questo, ma per esempio nel 48 ha fatto la prima macchina al mondo che avesse un motore diesel. Cioè solo il pensare che il motore diesel, che vuol dire camion, diesel era trattore, no? Messo su un automobile era una rivoluzione copernicana. E infatti il libro è dedicato a queste tre persone, che è stato invece un amore rivolto alle persone. Quello che è venuto dopo ha continuato a essere amore, ma non più rivolto alle persone, perché le persone non le ho più considerate, nella mia visione evidentemente, persone stimabili, di valore, eccetera, ma non quelle che, per cui si prova amore. E quindi il mio amore si è trasferito, c'era anche prima, ma si è trasferito sui muri, sui pavimenti, sulle macchine utensili, su tutto il contesto di via. Questa storia uno si chiede, ma perché deve finire? Un amore non è mica detto che debba finire. Io invece mi sono dato una risposta: l'amore è finito, che poi questo non vuol dire che non ci si lasci bene, non ci si continui a voler bene, no? Però l'amore è finito per motivi oggettivi, cioè quando l'amata cambia nome, si chiama FCA, nome imbarazzante, no? Per certi versi. Imbarazzante nel senso proprio tecnico dell'Orsio. Ah, certo. No? Va via dall'Italia, cambia lingua, io credo che sia un qualche cosa di dirompente nell'insieme della cosa. È un tradimento, si potrebbe anche denunciare per abbandono del posto sindacale. Un tradimento, io l'ho vissuto di una presa d'atto. Cioè, non è una critica il fatto che si sia fusa e che abbia deciso, ha fatto tutte cose correttissime, però il mio rapporto vale il discorso finita, tra parentesi. E quindi la Fiat cambia nome, paese e lingua e quindi finisce come azienda. Allora, siccome c'è tutto un percorso che a me è piaciuto molto, lo sviluppo proprio del percorso, però ne approfitto per fare questa domanda che mi è sorta dal suo parlare. Lei ha parlato di persone, di tre persone in particolare, Valletta, Giacosa e Rubiolo, e poi è passato ai muri. Allora mi chiedo, come ci si può innamorare, a parte queste tre persone, per un'azienda così grossa dove uno pensa che non ci siano dei rapporti umani stretti, dove ci pensa piuttosto all'impersonalità dovuta alla grandezza, certo, dei motori. Come si riesce invece a fare il salto che ha fatto lei? Beh, dunque, indubbiamente sono, se le tre persone, se uno legge poi i capitoli che le riguardano, ci sono dei motivi profondi. Nel caso della signorina Rubiolo è avvenuto un fatto eclatante, che la morte di mio padre, come lei ha gestito. Mio padre era un semplice operaio, lei è una persona già importante, eppure ci ha avuto questo. E qui entriamo in un mondo, direi quasi sociologico, cioè la Fiat era un'azienda che aveva un tasso di paternalismo altissimo, ma proprio perché era paternalista i rapporti umani erano on off, no? Cioè o c'è grande amore oppure rapporto difficile, non c'era la cosa di mezzo. L'ingegner Giacosa è semplicemente perché io ho lavorato molti anni con lui, pur non essendo uno che era l'ultimo granellino di sabbia dell'organizzazione progettativa. Il professor Valletta, anche questo per un episodio che io racconto, ma che per me ha rappresentato l'Italia, perché a questo punto dobbiamo fare un passo indietro. Queste persone hanno dato il massimo di loro negli anni 50 e 60, che sono esattamente gli anni del miracolo economico italiano. Io faccio un parallelo con la Fiat, sempre nell'ambito dell'amore, la paragono all'arma dei carabinieri, che forse a Bruxelles può significare poco, perché non è la gendarmerie. No, decisamente. L'arma dei carabinieri invece è un qualche cosa, è lo Stato. Il carabiniere rappresenta lo Stato, nel bene e nel male, ma rappresenta lo Stato. La Fiat era lo Stato, cioè era la versione industriale dello Stato. E se voi andiamo a vedere il successo dell'Italia e della Fiat, ha marciato di pari passo, e la crisi dell'Italia e della Fiat hanno marciato pari passo. Quindi questo era l'aspetto che riguardava Valletta. Valletta perché Valletta voleva dire lo sviluppo, cioè era l'uomo che aveva avuto l'intuizione di fare quella che adesso si chiama pomposamente crescita, ma una crescita vera, sul serio. Ma lavorare, allora, il concetto di amare i muri, al di là di queste tre persone, i suoi rapporti com'erano? Cioè, poi ha trovato qualcun altro, ha sempre detto che ci sono persone assolutamente stimabili, ma per quale non c'era amore? Poi è rimasto, ha detto invece qualcosa sui muri, ecco, questo rapporto non interessa. Il discorso è rimasto nel senso che questo passaggio, cioè, è, per certi versi è stato il passaggio alla modernità, cioè la Fiat era un'azienda monolitica che faceva un'infinità di prodotti, ma c'era la stessa persona, cioè il professor Valletta era contemporaneamente presidente, amministratore delegato e direttore generale, solo 7-8 anni prima di morire ha dato la direzione generale a un'altra persona. Però c'era questa visione, questo comportamento che era, secondo me, estremamente innovativo. Poi dopo ci sono stati dei grandi cambiamenti, la divisionalizzazione, la separazione in altri enti, però, e questo è il mio giudizio di management, che non coincide con quello, non della Fiat, ma quello in genere che c'è oggi, è che un grande amministratore delegato, secondo me, deve avere tre caratteristiche. Una caratteristica era una visionaria, che non è solo la vision, una vision visionaria. Secondo, una grande capacità di execution. Una delle cose su cui siamo più carenti oggi, l'execution, ma anche in politica, lo vediamo con la Grecia, no? Siamo qui in questi giorni, se c'è una cosa, un problema che si risolve in 4-4-8 è l'execution, o dentro o fuori, no? Non c'è vie di mezzo. La terza cosa è avere una capacità di afflato sociale, che non vuol dire, attenzione, essere buoni, non vuol dire essere olivettiani, no? Non per, tanto per intenderci, vuol dire però che il rapporto sociale è un rapporto importantissimo. Solo i grandi manager hanno queste tre cose. Valletta le aveva tutte e tre. Questo era il punto. Dopo io non ne ho più visti di personaggi di questo tipo. Ne parleremo alla fine poi dei nuovi personaggi che hanno... Certo. Trasformato la Fiat in qualcos'altro, l'hanno fatta rinascere come la Fenice delle proprie ceneri. Ritornando al libro, il libro comincia con dei titoli estremamente interessanti: Fiat mamma, Fiat papà. Sì. Allora, al di là del fatto che lei già all'inizio ha detto che la sua famiglia copre di fatto 100 anni della storia della Fiat, però la sua storia personale comincia con la sua nascita e a un certo momento parla appunto di Fiat mamma, Fiat papà. Perché? Qual era la sua sensazione in quel momento? Che cosa c'è in questi concetti? Questa è la prima parte della mia cosa. Lei è stata praticamente, io certo che ho avuto genitori, ma già l'episodio che io racconto della morte di mio padre, lei praticamente è diventata mamma. La signorina Rubiolo in quel momento lì è diventata mamma. Il professor Valletta e l'ingegner Giacosa sono diventati papà. Papà non biologici, ma intellettuali, no? Questo. Quindi andiamo avanti, perché vorrei sapere, mi ricordo che nel libro della storia operaia si raccontava della sorta di miracolo della New Holland, sì. Un miracolo che poi ha causato, si è portato dietro, come tutte le medaglie, un backside che non è stato molto felice. In realtà poi dopo è stato felice, ma comunque. Con il seguito. E dove arriva, dove si situa New Holland nella storia sua con la Fiat? New Holland è... La storia dell'amore. Sì, sì. New Holland è stato un rapporto d'amore fortissimo, ma il caso New Holland è in realtà il caso di un investimento. Io ho cominciato a investire su di me senza nessuna ipotesi che poi sarebbero successe delle cose. Io ero un semplice operaio, poi sono diventato un travet e negli anni 60 io ho cominciato a studiare per conto mio. Mi davano dei lavori abbastanza idioti e quindi c'avevo un sacco di tempo. Mi sono messo a studiare ad esempio una cosa che stava nascendo allora, ma che io non avevo nessuna idea che avrebbe potuto essere utile, la sociologia. Abbastanza strana, no? La sociologia di allora è in realtà, parlo non della componente politica, ma della componente organizzativa. La sociologia era organizzazione, quindi c'erano questi studiosi che studiavano i rapporti in queste grandi organizzazioni, come avvenivano i rapporti. Io ho cominciato a dedicarmi a fondo a capire questo. Il secondo aspetto era che, come io dico così con una battuta nell'altro libro, che essere nato in una portineria, il portinaio è uno che praticamente sa tutto e quindi è un valutatore di persone. E questo è stata una delle caratteristiche che hanno connotato la mia vita. Io dedico tantissimo a valutare le persone con dei miei criteri. Certo. Che sono venuti via via, perché io sono praticamente campato con queste due competenze, valutare le persone e dare un modello organizzativo all'azienda che fosse il più adatto a questo. Mi fermo qua. No, infatti è molto estremamente interessante quello che sto dicendo, cioè, mi fa molto piacere qualcuno veramente rivaluti proprio il senso del portinaio, cioè che abbia nominato sia l'affratto sociale, cioè il senso del sociale in un grande manager, e il fatto che un portinaio, dove si nasconde anche qualcuno che ha le conoscenze, da lì si può imparare molto, e questo viene usato poi dal grande manager, cioè ci sono queste connessioni estremamente forti. Visto però che, torniamo al titolo, la storia d'amore è finita, io sono convinto che i nostri lettori troveranno estremamente interessante il libro come l'ho trovato io, ma ci possiamo permettere di dire... Scusi, lo troveranno su Amazon, lo troveranno sia in italiano che in inglese. Questo è interessante, qui in Belgio però siamo multilingue, quindi sì. Italiano e inglese va benissimo su Amazon. E, visto che appunto erano 115 anni di Fiat e 80 suoi personali... Possiamo anche forse tirare dei bilanci, ci possiamo divertire a tirare dei bilanci. Cosa cambierebbe lei di quello che ha fatto in Fiat? Cosa direbbe, ma questo forse l'avrei potuto cambiare? Qualcosa che le è rimasto dentro come una piccola spina nel fianco? Dunque allora, prima di tutto io, a differenza, proprio perché ero innamorato, ero e sono ovviamente, non, Io non ho mai avuto l'ambizione di essere un giorno il numero uno. Non lo sarei diventato, però non ce l'ho mai avuto questa ambizione, perché non era quello che mi interessava. Io ero molto più felice di occuparmi di un'azienda. Il caso New Holland per me è stato il massimo che si poteva avere, perché in realtà io non sono stato l'amministratore delegato, sono stato il padrone, che è il sogno di ogni manager, fare il padrone. E perché sono stato padrone? Non perché io abbia voluto fare il padrone, perché l'azienda era fallita. E nelle grandi organizzazioni i falliti vengono respinti. Infatti il mio amico, che lui conosce com'è il funzionamento, gli enti di staff, quando io sono diventato amministratore delegato della New Holland, ripeto, non prima scelta, ma terza scelta, perché i primi due avevano rifiutato, per i motivi oggettivi che era un'azienda fallita, erano due aziende fallite messe insieme. Le staff centrali, cioè che sono poi la curia, la può chiamare in tasca Bruxelles, non so, gli enti, chiamiamoli di staff, mi hanno ovviamente, ero un appestato, perché non si va, cioè avevano solo da perdere. Li ho rivisti quando l'azienda ha cominciato a guadagnare, allora sono ritornati perché era l'occasione per portare a casa qualcosa. Sono i parenti di famiglia, i parenti vicini che si allontanano quando le cose vanno male. Quindi questo è... E quindi lei che cosa avrebbe cambiato, se avesse potuto cambiare qualcosa? Potrassi indietro? Tornassi indietro. Allora, ci sono stati due momenti fondamentali nel quale io ero già in una posizione di responsabilità e che io ho espresso, perché il bello di questa organizzazione, di cui secondo me sia l'avvocato Agnelli sia Romiti, sono persone che io ho stimato molto dal punto di vista delle scelte, erano due personaggi totalmente diversi, ma delle scelte, perché questo comitato direttivo di cui ho fatto parte, che era fatto da 6 persone, noi eravamo veramente coinvolti in tutte le decisioni dell'azienda. Tra queste decisioni, il dilemma più grande che aveva la Fiat negli anni 80 era quello se doveva internazionalizzare l'auto. Cioè doveva internazionalizzare. Io appartenevo alla categoria di ai due, uno più uno, che non faccio il nome ovviamente, per lasciare la suspense. Eravamo i due che dicevano che era sbagliata la strategia che seguivamo, che la Fiat ha seguito negli anni 80, che era quella in fondo di occuparsi di fare cosiddette attività diversificate, quindi entrare in tanti business sostanzialmente italiani, prendendo un potere enorme, che è la critica feroce che io faccio a Cuccia. Questa era la Fiat che io non avrei mai fatto, cioè io ero a favore della Fiat che puntasse puntasse sui tre suoi core business, che erano le ruote dell'automobile, le ruote dei trattori, dove c'ero io, e le ruote del camion, cioè quella era la Fiat, la quale invece ha disperso energie, quattrini e tutto il resto, e questo ha perso gli anni buoni, che il grande tentativo, l'ultimo tentativo l'ha fatto Ghidella, dove io e quell'altra persona erano totalmente schierati con lui, che però ha perso ed è stato giubilato. Questo succede veramente alle grande aziende. Questa è una scelta strategica, evidentemente. Dunque, voi, cari amici, non lo sentite, non potete vederlo, perché ovviamente la radio non ci consente di vedere, ma di sentire, sì. E qui con noi, al nostro tavolo, insieme al dottor Ruggeri, c'è anche il dottor Roberto Vangrandi, che è qui che ci sente ed è uno che proviene dalla Fiat, proviene dall'Enel, adesso è special advisor di IDSO, se non sbaglio. Qui per il motivo più semplice della terra, conosco Fiat, conosco Ruggeri da anni, ci siamo in qualche modo ritrovati lo scorso anno, certo, alla presentazione di Una storia operaia, ed è un grande onore presentare il suo libro questa sera, perché credo di essere uno che appartiene a quella generazione che, se avesse avuto Ruggeri come amministratore delegato, se ne sarebbe innamorato, in una di quelle cose che si chiamano folie à deux manageriali, sicuramente mi avrebbe dato grande gioia e grande onore lavorare con lui. Io ho lavorato in Fiat 12 anni raccontando la Fiat e facendola scrivere, perché ero il responsabile dell'ufficio stampa internazionale. E gli anni di Ruggeri a New Holland me li ricordo molto bene, perché seguì poi tutto il processo di acquisizione di New Holland e la comunicazione relativa a questo. Quindi è un incontro di un giovane ex collega con un mito dei suoi primi anni alla Fiat. Ci ho lavorato dai miei 31-32 anni ai miei 44, quindi devo dire che è stato... Quindi condivide la cosa, si possa innamorare, ci si può innamorare. Si può innamorare, Fiat è un'azienda che forma, che forgia, dà un imprinting e non esito, l'ho sempre detto, tutto il mio backbone, la mia spina dorsale manageriale degli anni successivi la devo a quanto ha preso in Fiat. Quindi credo che stasera, presentando il libro di Ruggeri, ci divertiremo non tanto a ripercorrere pedissequamente delle orme da ex colleghi, ma a rimpallarci un po'.